cosa credevi? Che non ti amavo come hai potuto solo pensarlo, solo immaginarlo. Tu non sai quanto ancora mi sei dentro. Più di ogni altrove, più di ogni amore, più dell'aria, più della terra. Tu sei mia stella, il mio mare, la mia conchiglia, la mia spiaggia dove posare, la mia testa, tutto il mio cuore. Santo, il firmamento ha voluto farci incontrare. Siamo il sogno che si doveva realizzare. Amore, da questa vita troppo breve, adesso solo il ricordo del tuo profumo, del tuo sguardo, sempre nel punto più alto, tra gli oceani del mio mare, sei amore. Anima mia, dolce poesia, più santo, il firmamento ha voluto farci incontrare. Noi siamo il sogno che si doveva realizzare. Con te era tutto un altro mondo. Era tutto più santo, il firmamento ha voluto farci incontrare. Noi siamo il sogno che si doveva realizzare, l'amore.